Разрезал. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Beh, cominciamo subito la settimana con il pasticcio. Oh, esatto. Perché ogni tanto, pam, si esatto, apre. Si apre il microfono da solo, io non lo so cosa succede. Perché vogliamo proprio entrare nelle case prima dei della nostri sigla. Ascoltatori. Esatto, allora intanto buongiorno a tutti, ben ritrovati, riparte un'altra bella settimana, speriamo di sì. Cuore e denari anche oggi. Intanto un po' con un occhio puntato a quello che sta accadendo nel centro Italia come sempre. Oggi noi faremo un approfondimento sul tema delle assicurazioni, Nicoletta, dal punto di vista dei denari, perché da qua sono riprese queste scosse devastanti dalla scorsa estate, sta aumentando la sensibilità delle famiglie italiane verso queste forme di protezione e prevenzione naturalmente della propria casa, oltre che del proprio nucleo certo. familiare, quindi faremo un punto dell'industria, come sta cambiando l'offerta assicurativa proprio in funzione, come dire, anticalamità. Per quello che riguarda invece il cambieremo cuore, decisamente argomento, parleremo di quella che è stata definita la quarta strategia nella lotta contro i tumori, parleremo di immunoterapia oncologica. Lo faremo con uno dei maggiori oncologi mondiali, Michele Maio, che di questo approccio è pioniere e capofila. Quindi se volete saperne di più, se volete prenotare i vostri interventi, 800 24 00 24 il numero per entrare a casa di Cuore Denari, lo esatto. sapete bene, questa è la combinazione. E intanto siamo pronti a partire con la nostra rassegna stampa di denari. Una rassegna stampa che potremmo definire monotematica, perché stamattina la settimana sembra essere orientata a partire con delle notizie finanziarie già piuttosto interessanti. Allora intanto vi dico che Piazza Affari, il FTSE MIB, era partita con un ribasso di quasi un punto, adesso ha ripreso terreno e addirittura è positiva, più 0,08%, mentre rimangono ancora negative le altre piazze europee. Diciamo che i mercati finanziari aspettano la partenza del mandato di Donald Trump dopo il suo discorso inaugurale di venerdì scorso, e naturalmente io e Nicoletta che ci siamo concentrate solo ed esclusivamente sui vestiti di Melania, ovviamente che non okay. poteva essere diversamente però insomma erano molto belli, perché l'abitino sì. stile Jackie Kennedy non era male. D'altra parte lei è bellissima, esattamente. Quindi, poi direi che anche dite con quello che volete, ecco. Ma da questo punto di vista non si può dire nulla. Detto ciò, il mercato guarda questo. Intanto il dollaro appunto sta scendendo sempre di più e l'euro si è riportato appunto ai massimi da circa 5 settimane nei confronti del biglietto verde, e questa mattina un po' in tensione anche lo yen in Giappone, che ha portato il Nikkei a Tokyo a chiudere la seduta con un ribasso dell'1,3%. Ma su Piazza Affari subito occhi puntati su un caso. Generali più 6,42%, il titolo ha fatto fatica anche a entrare in negoziazione, aveva un rialzo anche più consistente, porta con sé anche il primo azionista del gruppo, Mediobanca, più 1,95%. Cosa sta succedendo? Ci racconta tutto Andrea Fontana, collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore, in diretta da Roma. Andrea, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, si starebbe costituendo, almeno lo dicono alcuni giornali da un paio di giorni a questa parte, questo asse, Intesa San Paolo, Allianz, per acquisire quote di Generali, ma con che obiettivo, Andrea? Ma l'obiettivo sembra innanzitutto quello di trovare un socio forte per le Generali, che un socio italiano, cioè Intesa San Paolo, visto che Mediobanca anche nei suoi piani recenti ha dichiarato l'intenzione di scendere dall'attuale 13,5% al 10%, e qualcuno ipotizza anche sotto questa soglia. Nello stesso tempo di condurre un riassetto che porti le parte delle attività estere delle Generali ad altri gruppi che sono interessati a queste attività, come il gruppo assicurativo tedesco Allianz, che potrebbe essere interessato ad attività all'estero delle Generali. E questo, diciamo così, si inserisce in un filone che già da quest'estate aveva rimesso nel mirino il gruppo di Trieste, in quell'occasione soprattutto in un mirino francese, visto che si parlava di AXA e dell'interesse di AXA per il gruppo italiano. Assicurativo italiano. Chiaramente è un'ipotesi molto complicata, anche perché secondo gli analisti innanzitutto non si inserirebbe nella strategia di Intesa San Paolo, che ha dichiarato più volte come la sua intenzione sia di crescere sì anche per acquisizioni, ma per lo più su scala internazionale e per lo più in attività come quelle del risparmio gestito e non quelle prettamente assicurative come quelle delle generali. Dall'altro canto, una strategia di Intesa San Paolo che ha parlato anche recentemente, insomma, di circa 7 miliardi di dividendi in distribuzione nei prossimi anni, quindi non sembra inserirsi in questa logica, ma chiaramente il mercato ci crede infatti, non solo come si vedono i movimenti delle generali e delle banche, ma anche nel risparmio gestito, perché Banca Generali controllata da Generali Assicurazioni sale di oltre il 5% e per esempio Banca Mediolanum scende il 2%, perché un po' si teme la creazione di un polo anche al risparmio gestito sull'asse Intesa Generali. Banca Mediolanum oggi ha anche una penalizzazione derivante da una riduzione di giudizio di una casa d'investimento, mentre la citata Intesa San Paolo sta perdendo l'1,86%. C'è chi scommette però, Andrea, che questa partita, questa operazione su Generali, ancora naturalmente presunta, sono indiscrezioni di stampa, peraltro aggiungiamo anche che potrebbero arrivare presto le dimissioni del direttore generale del gruppo, Alberto Minali, che era arrivato in Generali con Mario Greco, che a sua volta è stato l'amministratore delegato appunto di Generali, uscito di scena qualche mese fa per approdare in Zurich, quindi tante le notizie che in realtà riguardano il Leone di Trieste questa mattina, ma c'è da dire che c'è, come dire, la partita più importante, quella che da qualche tempo fa molto discutere la finanza mondiale, cioè di tutti quei colossi francesi che vanno all'assalto di colossi italiani. E si era proprio riproposta l'ipotesi di una conquista francese su Generali dopo tutte le partite che avevano riguardato invece, tutte le notizie che avevano riguardato invece Vivendi su Mediaset. Quindi in realtà presumibilmente, Andrea, anche alla luce di tutto ciò qualche cosa bolle in pentola, ma Société Générale, che di fatto è anche il secondo azionista di Generali, non viene riproposto in ballo di tutto questo questa mattina? In questo momento no, il titolo perde il 2% ed è sotto pressione come un po' tutte le banche francesi, anche l'Agricole e BNP Paribas, e allo stesso modo, prima non l'avevamo citato, Allianz, che sarebbe il soggetto industriale coinvolto nella partita, almeno in questo scenario Intesa Allianz, cede l'1%, quindi è un segnale, diciamo così, che il mercato è cauto, anche se diciamo penalizzerebbe sicuramente Intesa e soprattutto Intesa in questo quadro. Su Allianz, per la verità, il ruolo non è ancora molto ben chiaro dalle indiscrezioni di stampa. Si dice che potrebbe avere un ruolo industriale, ma bisogna capire in che modo, certo, e su quali asse. Diciamo che presumibilmente anche il denaro per fare un'operazione di questo tipo, non è detto che le altre grandi compagnie assicurative appunto siano tutte disponibili a mettere sul piatto le risorse necessarie per andare a fare un'operazione di questo tipo, quantomeno acquisire le quote che Mediobanca vorrebbe liberare. Andrea, grazie per essere stato con noi intanto, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Abbiamo commentato insieme il caso del giorno. Segnalo ancora un paio di casi di Piazza Affari. Unicredit, -1,45%. Oggi parte il raggruppamento di azioni in rapporto di 1 ogni 10 possedute. Riguarda questa operazione tutte le azioni del gruppo, le ordinarie e quelle di risparmio, ed è un'operazione in vista dell'imminente maxi aumento di capitale. Infine Enel, che perde un punto percentuale. Oggi il gruppo stacca l'acconto di dividendo. Le altre piazze europee sono ancora negative, ma hanno pure loro migliorato la loro seduta rispetto ad una partenza più pesante, -0,3% a Parigi e Francoforte. Direi che siamo pronti a partire con il primo approfondimento di oggi, già preannunciato. Allora, la maggior parte degli italiani è, per sua fortuna, diciamo, anche se molto partecipe, solo spettatrice dello spettacolo doloroso che viene rappresentato nel centro Italia dalla scorsa estate, della prima ondata di scosse di terremoto che ha letteralmente raso al suolo Alcuni dei paesi più belli di quest'area, Amatrice, Arquata del Tronto, accumuli per ricordare proprio i primi tre colpiti dalle prime scosse devastanti. E poi, insomma, sono scosse di terremoto che, come sapete, nei mesi hanno letteralmente messo in ginocchio le popolazioni fra le province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, ma molto ampio è il comprensorio colpito appunto tra l'Abruzzo, le Marche e l'Umbria. Le altre devastanti scosse di fine ottobre hanno dato un colpo ulteriore a quelle comunità sulle quali poi, nelle ultime settimane, è arrivato anche il colpo di grazia del maltempo che ha infierito appunto in particolare sull'Abruzzo e le Marche. Già la scorsa estate in diverse trasmissioni siamo tornati ad esaminare la questione della cultura preventiva e protettiva degli italiani. Assicurano le case contro il rischio terremoto? È vero che da questo rischio si tutelano in prevalenza le imprese e poco le famiglie? È cambiato qualcosa dalla scorsa estate? C'è più sensibilità al tema sia da parte dei cittadini che da parte delle imprese di assicurazione? Allora, un tema molto ampio sul quale noi intanto vorremmo il vostro coinvolgimento all'800 24 00 24. Tra un po' c'è il traffico, ma intanto saluto l'ospite che con noi commenterà tutti questi aspetti molto importanti e delicati. Abbiamo con noi appunto Luca Franzi, presidente di AIBA, Associazione Italiana dei Broker e Brokers, dei Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione. Stamattina parto un po' con la patata in bocca, come si dice. Franzi, buongiorno e benvenuto a Quarantinari. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, ascoltiamo insieme il traffico e poi cominciamo la nostra chiacchierata con lei. A tra poco. Cuore e denari. Allora, ritorniamo alle zone del centro Italia devastate dalle scosse di terremoto e adesso ad infierire è arrivato anche il maltempo, per parlare di come e quanto gli italiani si assicurano contro questi rischi che devastano naturalmente poi famiglie, imprese, intere comunità economiche. Questa mattina con noi Luca Franzi, presidente di AIBA, Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazioni, che peraltro ha fatto un grande studio nel weekend, mi ha raccontato, perché ha provato a sentire molti dei suoi colleghi proprio per capire se dalla scorsa estate qualcosa è cambiato nella testa, nel cuore, nella sensibilità delle famiglie e delle imprese in tema di protezione e appunto prevenzione. Partiamo da una considerazione già nota, dottor Franzi. Sappiamo che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, riguarda il 38% almeno dei comuni italiani, idrogeologico e vulcanico, e nonostante ciò il patrimonio produttivo italiano continua ad essere considerato scarsamente assicurato contro le calamità naturali. Alla luce di questa più volte richiamata consapevolezza, che cosa le è venuto in mente, Presidente, in questi giorni in cui la terra è tornata a tremare e anche il maltempo ha dato, come dicevamo prima, questo terribile colpo di grazia? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, cosa mi è venuto in mente? È una considerazione che appare evidente come oggi sicuramente ci sia stata, diciamo, un grandissimo richiamo mediatico su questi eventi, e il richiamo mediatico abbia un po' sollecitato quelle che sono le coscienze non solo delle persone che oggi più che mai hanno capito come assicurare la propria casa diventa importante, ma anche gli assicuratori, che certamente hanno cambiato in maniera radicale quello che era l'approccio che avevamo registrato, diciamo, prima dell'estate. Oggi le famiglie stanno chiedendo più tutela agli assicuratori, e gli assicuratori, complice anche una situazione favorevole di mercato, è in grado di soddisfare maggiormente i bisogni. Quello che però è un aspetto sul quale è importante richiamare l'attenzione e che spiega un po' quelli che sono, diciamo, gli effetti emotivi del terremoto, che oggi si continua ad avere un'attenzione molto focalizzata sul tema terremoto e meno focalizzata sul tema catastrofi naturali più in termini di carattere generale, ovvero sia le inondazioni, le alluvioni, gli allagamenti, le bombe d'acqua, che stanno diventando un problema importante. Quindi, diciamo, non appena si verifica il terremoto si aumenta un po' l'attenzione su questo tipo di calamità, ma non sul tema complessivo appunto della protezione da tutti i rischi. Corretto. E nello stesso tempo, diciamo, quello che io ho, facendo mente comune, un po' analizzato, è che divido in tre il mondo degli assicurati: le famiglie, le piccole e medie imprese, il commercio e le grandi imprese. Bene, come dicevo prima, nelle famiglie certamente c'è stata una maggiore richiesta, ci sono state anche delle campagne da parte del mercato assicurativo nel venire incontro agli assicurati, sia e riducendo le limitazioni in termini di copertura, lo dicevamo quest'estate, ad Amatrice era difficile trovare un assicuratore disponibile, al di là di quello che possano essere ancora i beni assicurabili, oggi il mercato non pone tutti quei limiti che poneva prima, sia in termini di territorio che in termini di limiti assolutivi. E poi campagne appunto individuali di molte compagnie, fra cui la pluricitata questa mattina per il fermento che sta determinando a Piazza Affari, che ha dimezzato i premi appunto di questa tipologia di polizza, l'ha fatto proprio Generali, appunto scuotendo anche un po' il mercato e determinando forse anche, non so se questo è successo, dottor Franzi, un po' effetto domino fra le altre grandi imprese, è stato così? Sì, sì, anche altre imprese, ognuna oggi diciamo che sul tema terremoto ne ha fatto anche una campagna importante da un punto di vista del marketing, ben venga, perché questo ha ampliato moltissimo le opportunità di protezione da parte dei singoli. E quindi insomma lei diceva tre grandi tipologie di come dire, clientela da soddisfare, le famiglie che hanno raddrizzato un po' le antenne su questo tema, le piccole e medie imprese e le grandi imprese invece, quindi da questo punto di vista cosa sta cambiando? Ma sulle grandi imprese diciamo, l'attenzione è costante e continua e quindi sicuramente c'è stata in taluni casi anche una richiesta di una maggiore protezione rispetto a quella che veniva richiesta prima. Forse il punto dolens rimane ancora la piccola media impresa, il commercio, i piccoli negozi che nonostante rappresentino certamente diciamo, la spina dorsale dell'economia dell'Italia, oggi non abbiamo percepito diciamo, una maggiore richiesta, una maggiore sensibilità così marcata come abbiamo sentito negli altri casi. Certo. Allora, di coperture assicurative contro eventi calamitosi come i terremoti se ne è parlato molte volte sulla scia dell'emotività post-evento. No? Negli ultimi anni le ipotesi per introdurre un sistema di tutela assicurativa obbligatoria o semi-obbligatoria per i danni causati dagli eventi sismici sono state diverse, però nessun governo è riuscito a portare a conclusione il progetto. L'ultimo ad averci provato è stato Monti nel 2012. Intanto, anche a causa di questo, l'Italia rimane indietro rispetto ad altri paesi europei che prevedono forme di copertura assicurativa contro gli eventi catastrofali. Perché è così difficile rendere obbligatoria la copertura in un paese ad alto rischio sismico come l'Italia, dottor Franzi? Appunto, perché non si riesce a farlo alla pari di come viene fatto appunto con l'auto? Tutti gli italiani sono obbligati ad assicurarsi come conducente, insomma. A mio modo di vedere, perché l'assicuratore ancora, nonostante gli sforzi fatti, non gode di buona stampa, quindi non viene individuato da un punto di vista degli assicurati come un partner strategico col quale definire un'alleanza e in qualche modo definire un percorso che garantisca tutte le tutele del caso. L'assicuratore viene ancora in qualche modo ha ancora un'immagine non particolarmente linda e costruttiva, se si può dire così, e quindi ogni iniziativa da parte del governo, questo è il mio punto di vista, che vada verso l'obbligatorietà delle coperture assicurative viene percepito come regalo alle assicurazioni. Esatto. E invece bisognerebbe cambiare un po' cultura. È anche vero che lei lo sa, dottor Franzi, so che è un tema a cui tiene particolarmente. Molto spesso questi strumenti di protezione per le famiglie, pur nella sensibilità appunto che le famiglie possono dimostrare, perché chi non vuole proteggere la propria casa, il proprio nucleo familiare, la propria attività produttiva, il tema è la ricchezza di clausole che spesso sono appunto che vanno ad arricchire questi contratti di assicurazione. Tant'è vero che proprio lei mi raccontava, magari raccontiamolo subito, dottor Franzi, che spesso chi si assicura appunto per esempio contro gli infortuni nelle aree colpite dal terremoto, se rimane vittima di un infortunio derivante da una trave che ti cade in testa a causa del terremoto, la tua assicurazione non ti paga. Per cui ecco che qua dobbiamo di nuovo sensibilizzare le compagnie piuttosto che le famiglie e le imprese. Assolutamente sì, qui rientriamo nel famoso discorso della trasparenza, della chiarezza, della soddisfazione dei bisogni degli assicurati. Allora, non tutti sanno, come brevissima parentesi, che esiste il codice civile che ancora norma gran parte del contratto di assicurazione. Proprio un articolo del codice civile esclude dalla copertura tutte le conseguenze, dalla copertura assicurativa tutte le conseguenze degli eventi naturali, a meno che non venga derogato. E questo diciamo che è il primo aspetto, ovvero sia che nelle coperture assicurative, e qui anche il broker svolge una sua funzione fondamentale nell'analisi di questi aspetti meno noti, che la copertura assicurativa prevede espressamente la copertura degli eventi naturali. In secondo luogo, talune polizze prevedono ancora l'esclusione di quelli che sono gli infortuni subiti a causa del terremoto nei luoghi di residenza, come dire che il residente ha da matrice in caso di evento non avrebbe avuto diritto all'indennizzo, mentre il turista che si trova lì per caso sì. Esistono poi altri casi dove comunque la portata della copertura è fortemente limitata rispetto all'attesa dell'assicurato, secondo tutta una serie di schemi logiche proporzionali, dove comunque l'assicuratore per ogni singolo evento ritiene di non dover essere esposto per oltre una determinata somma complessiva. Allora, noi adesso dobbiamo andare in pausa, dottor Franz. Intanto, anche così su sollecitazione di molti ascoltatori, poi proveremo a fare un preventivo alle famiglie che ci seguono, ai nostri ascoltatori. Se volete potete anche intervenire, abbiamo ancora una decina di minuti di tempo dopo il giornale radio per approfondire questo tema. 800 24 00 24, ci chiediamo quanto costi oggi una polizza. È chiaro che dipende dal tipo di composizione del nucleo familiare, dalla caratteristica del territorio su cui è costruita appunto la nostra abitazione. C'è uno studio realizzato dall'ANIA su dati Istat del 2010, quindi un po' vecchiotta, però insomma che ci dà una misura di quanto costi assicurarsi contro le calamità naturali. Cosa dobbiamo chiedere al nostro assicuratore nel caso volessimo sottoscrivere una polizza di questo tipo? Nicoletta, sentiamo il giornale radio. Andiamo. E poi torniamo insieme tra poco. Piacere. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Ancora insieme per qualche minuto con Luca Franzi, presidente di AIBA, l'associazione dei broker di assicurazione e riassicurazione. Stiamo parlando delle tutele che possono adottare famiglie ed imprese italiane per proteggersi dalle calamità naturali in Italia, paese ad alto rischio sismico ma anche ad alto rischio idrogeologico, vulcanico e quant'altro. Da quello che sta succedendo in Italia dall'estate scorsa, a quanto pare c'è certamente un po' di fermento, se così possiamo definirlo, sicuramente un incremento di sensibilità da parte delle famiglie verso ogni tipo di forma appunto assicurativa che in qualche maniera possa consentire ad una famiglia di rimettersi insieme se la casa si perde quando si verificano appunto questi fatti. Sicuramente ci si sta provando a documentare un po' di più su quanto costa una polizza per assicurare il nucleo familiare, per assicurare appunto la propria abitazione se non la propria impresa. Allora stiamo provando anche a fare stamattina in diretta un preventivo agli interessati all'800 24 00 24. Dottor Franzi, sicuramente non è facile perché bisogna valutare molti aspetti, le caratteristiche dell'abitazione in cui si abita, le caratteristiche soprattutto della zona in cui si abita. È chiaro che assicurare oggi una famiglia che abita ad Amatrice, a patto che abbia rimesso in sicurezza la sua casa, e assicurarne una che abita a Milano, a parità di nucleo familiare, magari di redditi che entrano e quant'altro, è ovvio appunto che il costo della polizza è diverso. Ma siamo in grado di dare un po' una cifra media ai nostri ascoltatori oppure è difficile anche per voi? Ma allora, diciamo che volendo essere assolutamente onesti e sinceri come siamo, dare delle cifre è sempre difficile, ma quello che si può certamente dire è che oggi assicurare una casa costa molto meno rispetto a quanto lo costasse un tempo anche per gli eventi catastrofali. Esistono poi delle coperture anche stand alone che oggi il mercato mette a disposizione. Cosa vuol dire? Ovvero sia, tu puoi assicurare solo il terremoto senza assicurare la casa. E questa diciamo che è un'ulteriore novità introdotta dal mercato. E quindi da che cosa ti protegge questa forma assicurativa? Solo dal terremoto, mentre solitamente il terremoto viene data come un'estensione, come gli altri eventi di natura catastrofale, rispetto alla copertura incendio base. E quindi tu per assicurarti per il terremoto devi assicurare anche la casa, e questo peraltro accelererebbe un po' quel livello di penetrazione ancora troppo scarso di copertura a livello individuale della propria abitazione da parte dei cittadini italiani. Oggi alcuni assicuratori invece mettono a disposizione anche la sola copertura, certo, per il terremoto. Allora, le faccio sentire intanto sui costi, sì. Poi magari possiamo ritornare a questo studio ANIA, su dati Istat del 2010, che sì. Dice che per assicurarsi contro le calamità naturali, e quindi anche terremoto, sì. Comporterebbe appunto l'esborso di 75 euro l'anno in media per ogni abitazione, così ripartiti, 67 per ogni casa al nord Italia, 91 al centro, 72 euro al sud. Io mi ricordo che queste cifre le avevo date anche la scorsa estate, molti ascoltatori mi dicevano: ma che cosa vuoi coprirti con cifre così basse? È vero, Franzi? Diciamo come di consueto la cifra poi corrisponde a quello che è il valore che voglio assicurare. Qui stiamo parlando di case unifamiliari e quindi di case che possono avere un valore di ricostruzione, perché non dimentichiamoci che indipendentemente da quello che è il valore percepito, ovvero il valore di acquisto della casa, quando io assicuro i beni contro un evento anche di natura catastrofale, mi limito a garantire quelli che sono i costi per la ricostruzione, quindi non per il riacquisto del terreno e quindi per tutto quell'aspetto, certo, diciamo, di natura commerciale. Quindi è una stima fatta, io adesso non conosco esattamente quello che è il parametro di riferimento in termini di quello che possa essere il valore della casa, ma certamente stiamo parlando di case unifamiliari che sono, diciamo, la media che troviamo in Italia. È vero, è evidente che se io devo assicurare un palazzo il costo sarà necessariamente superiore, ed è evidente che se vado ad assicurare un monolocale anche 70 euro potranno sembrare esagerati. Senta Franzi, le compagnie possono rifiutarsi di sottoscrivere questo tipo di polizze se il territorio in cui si abita è ad alto rischio? Assolutamente sì. Possono farlo, quindi. Assolutamente sì. Allora, diciamo che non esiste nessuna obbligatorietà. Chiaro, nel infatti, tant'è cose. Vero che c'è anche qualche idea di magari prendere a modello quello che accade in Francia, dove dall'82 le garanzie sulle catastrofi naturali sono un'estensione di qualsiasi contratto, esatto, di assicurazione. Prima di salutarla, velocemente una considerazione di un imprenditore di Genova, Massimo, che salutiamo. Veloce Massimo, buongiorno. Grazie per avermi dato parola. Anche a lei. Il problema è un problema di garanzie, cioè io come imprenditore ho avuto subito due alluvioni, tra l'altro con una compagnia che si blasonava sponsor di una squadra di calcio genovese molto famosa e che alla fine è miseramente fallita, nessuno ha preso una lira. Quindi un problema principalmente non tanto di compliance nei confronti di chi vuole assicurarsi, il problema è che la gente è diffidente. Io in due alluvioni non ho percepito una lira e una compagnia, certo, è fallita probabilmente apposta, sì, magari, per non pagare. Ecco, speriamo di no, Massimo. In realtà poi quando abbiamo fatto la puntata la scorsa estate io le posso assicurare invece che ci sono arrivate tantissime testimonianze, per esempio dagli imprenditori dell'Emilia Romagna, che ringraziavano il cielo di aver sottoscritto forme di assicurazione, perché in quel caso c'era stata una risposta pronta. Poi dipende caso per caso, in questo caso parliamo di una compagnia fallita. Magari, Massimo, andremo ad indagare anche su questo. Franzi, prima di salutarci, solo 30 secondi. Ho anche una domanda di... Se accendi il microfono, grazie. Sì, ma, ce l'abbiamo. Ma io ho Carmelo che è il mio angelo. Esatto, allora, io ho microfono. Una domanda di Daniela che ci fa via WhatsApp. Abita a Modena, in un condominio, 8 unità, e ci chiede: avrebbe senso un'assicurazione solo per il mio appartamento? Sarebbe meglio, brava, una stipula a livello condominiale? Bravissima. Grazie Daniela. Dottor Franzi. Assolutamente a livello condominiale. Ah, quindi diciamo assicurarsi individualmente, se poi abitiamo in un edificio tutto a rischio, non assicurato complessivamente, serve poco? Diciamo che non è che serva poco, ma a mio modo di vedere poi diventa difficile con i soldi del mio appartamento ricostruire, diciamo, tutto il resto, certo, del building che non è stato assicurato. Chiaro. Laddove noi ci attendiamo che lo Stato non sia così repentino, certo, nel supportarci nella ricostruzione. Dottor Franzi, io la ringrazio per essere stato con noi, ci sono molti ascoltatori anche su Facebook che ci stanno scrivendo, magari le giro alcune considerazioni generali da parte loro in privato, così da poterle soddisfare appunto queste richieste in un altro momento. Due raccomandazioni da fare alle famiglie italiane che da oggi accarezzassero l'idea di proteggersi da questi rischi. Quali sono le due domande più importanti da fare all'assicuratore? Quanto mi riconosce il contratto in caso di una calamità naturale, in primo luogo. in secondo luogo e quali sono, diciamo, le esclusioni che in qualche modo un domani potrebbero generare la delusione nel rapporto con l'assicuratore. Che non vengano fuori proprio nel momento del bisogno, ma che le si conosca bene prima. Grazie Franzi, buona giornata. Grazie a tutti voi. Io vorrei dire a presto per parlare di argomenti più divertenti, vorrei non sentirla tanto presto se dobbiamo ritornare su questi temi. Che cosa ne dice? Cioè, auspichiamo magari un tema più sereno per la famiglia. Grazie. Va bene, assolutamente. Grazie molte. Nicoletta. E allora noi passiamo al tema della puntata di Cuore. In questa seconda parte del programma, come anticipato, parliamo di quella che è stata definita quarta strategia nella lotta contro i tumori, quella che in combinazione con chirurgia, chemio e radioterapia potrebbe sconfiggere il cancro senza bisogno di combatterlo in campo aperto, semplicemente imbrigliandolo o disinnescandolo da dentro. Parliamo di immunoterapia oncologica, lo facciamo con uno dei maggiori oncologi mondiali che di questo nuovo approccio è pioniere e capofila. In linea con noi Michele Maio, direttore dell'unico reparto dedicato proprio all'immunoterapia dei tumori all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Buongiorno dottor Maio, bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Intanto, dottor Maio, l'abbiamo annunciato la sua presenza qua a Cuore Denari e già gli ascoltatori si sono attivati all'800240024 e voglio dare subito la parola a Giovanna che ci chiama dalla provincia di Modena perché ci sta aspettando dall'inizio della puntata. Giovanna, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e anche alla Deborah, io vi seguo quasi sempre quando posso. Grazie Giovanna. Allora, al dottor Maio a sua disposizione parleremo di immunoterapia, cercheremo di farci spiegare con parole semplici dal dottor Maio in quali casi indicate, ma soprattutto che cos'è, in che cosa consiste, ma le domande degli nostri ascoltatori sono tante, quindi sino alle 12 il dottor Maio è tutto nostro, a disposizione, chiamate. Dottor Maio, ecco Giovanna per lei. Niente, io volevo chiedere se l'immunoterapia sostituisce la chemio oppure se è abbinata, e poi volevo anche chiedere se è una cura che si può applicare in fase preventiva, siccome mio marito è stato operato di un tumore al polmone sinistro a fine 2016 e per fortuna non ha dovuto fare la chemioterapia perché l'hanno operato bene, sono stati bravissimi e siamo arrivati in tempo, presumo. Però gli hanno detto così che anche il polmone destro è a rischio perché lui è stato fumatore per tanti anni. Intanto io vi ricordo l'iniziativa di Cuore Denari per aiutarvi a smettere di fumare, potete andare sulle nostre pagine, smetto Boffi. Di fumare col dottor Boffi e la dottoressa Munarini come supporto di psicoterapia. Dottor Maio, allora domande come quelle di Giovanna ci danno modo di entrare subito nel merito del nostro tema. Intanto Giovanna fa una domanda che è ricorrente, appena io ho parlato di immunoterapia sono arrivati tanti messaggi che chiedevano ma allora è un'alternativa, che cos'è? Iniziamo a rispondere a Giovanna e poi metteremo un po' in chiaro alcuni punti che ci permetteranno di capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Dottor Maio. Sì, relativamente alle domande di Giovanna, prima di tutto l'immunoterapia non si associa in genere al trattamento chemioterapico, ma la sostituisce. Ci sono in corso sperimentazioni in cui viene anche associata al trattamento chemioterapico, ma parliamo di sperimentazioni cliniche attraverso le quali si cerca di capire se le due strategie combinate o sequenziate possono in qualche maniera essere più efficaci del solo singolo trattamento immunoterapico o chemioterapico. Relativamente alla seconda domanda, in questo momento sono in corso sperimentazioni anche nel cancro del polmone relativamente a pazienti che sono stati operati in maniera radicale, quindi in cui la malattia è stata eliminata del tutto dal chirurgo ed in cui l'immunoterapia viene utilizzata per cercare di capire se riusciamo a ridurre il rischio che la malattia si possa ripresentare. Dottor Maio, insieme a Daniele Agnese Codignola, lei ha appena pubblicato Il corpo anticancro, in cui raccontate la storia dell'avventura scientifica che è alla base di questa rivoluzione terapeutica che, come ci spiegherà, nasce proprio da un nuovo modo di considerare la malattia. Un libro che io naturalmente consiglio, di cui consiglio la lettura ai nostri ascoltatori, che spiega come funziona l'immunoterapia, quali promesse rechi con sé, quali rischi comporti, quali risultati ha raggiunto e su quali sta lavorando. E nel libro voi raccontate la storia dell'immunoterapia, ma raccontate anche di tante storie di pazienti che lei ha incontrato dall'inizio della sua carriera. Dottor Maio. Sì, assolutamente. Con Agnese Codignola abbiamo più di un anno fa fatto una piccola scommessa fra di noi, cercare di raccontare in maniera semplice, in maniera divulgativa, tutto quello che è successo negli ultimi decenni, direi, relativamente alla possibilità di utilizzare il sistema immunitario per tenere sotto controllo il cancro. E l'abbiamo fatto, come diceva lei, proprio partendo dalle storie dei pazienti, quindi cercando di raccontare in maniera semplice l'evoluzione di quella che in qualche maniera è certamente la quarta strategia per combattere il cancro, attraverso proprio le storie di pazienti, anche attraverso le storie di pazienti che io personalmente ho seguito per 20 anni e che in qualche maniera in questi 20 anni hanno sulla propria pelle, direi, sperimentato tutto ciò che di nuovo c'era a disposizione nell'ambito dell'immunoterapia. Quindi ci sono alcuni pazienti che sono il prototipo praticamente del paziente inserito in diverse sperimentazioni cliniche e che in qualche maniera sono andati avanti per tantissimi anni ormai. Dottor Maio, cercherò di evitare metafore belliche che vengono sempre usate quando si parla di cancro, perché Daniela Minerva, altra bravissima collega che stimo grandemente, che ha firmato la prefazione del vostro libro, avverte che non vi piace parlare di guerra al cancro. D'altronde, l'immunoterapia si muove nei confronti della malattia in un'ottica diversa, direi meno belligerante. Infatti l'obiettivo non è sterminare le cellule tumorali, ma direi siglare con loro una lunga tregua, un compromesso conveniente, come scrivete nel libro, e soprattutto un compromesso accettabile a tutti. Dottor Maio, è questo un po' il cambio di passo? Direi di sì, direi Daniela Minerva che ha colto molto bene nella prefazione quello che poi in effetti è un po' l'essenza dell'immunoterapia. Si cerca sostanzialmente, utilizzando dei farmaci nuovissimi che in alcuni casi abbiamo già a disposizione nell'ambito del sistema sanitario nazionale, di rieducare il sistema immunitario del paziente a fare ciò che in principio è in grado di fare, cioè tenere sotto controllo lo sviluppo del tumore. In alcuni casi il tumore è capace di sfuggire a questo controllo e quindi abbiamo la manifestazione clinica della malattia. Quello che si fa con l'immunoterapia è non distruggere direttamente le cellule tumorali, come facciamo ad esempio con la chemioterapia, con la radioterapia, ma siglare una sorta di patto e di equilibrio fra il sistema immunitario del paziente e la malattia, in modo tale che siano le stesse difese che immunitarie del paziente a tenere sotto controllo le cellule ammalate e in moltissimi casi ovviamente anche ad eliminarle del tutto, ma in alcuni casi a far sì che ci sia una sorta di cronicizzazione della malattia, e quindi questa è la ragione per cui può essere un vero e proprio patto con la malattia. Quindi fate leva sul sistema immunitario, lo attivate, lo risvegliate e per metterlo nella condizione di reagire a dovere, proprio come fa con i virus e i batteri, insomma, per convincerlo sì. A fare il suo lavoro. Assolutamente sì, il nostro sistema immunitario ci difende continuamente da ciò che di estraneo che viene in contatto con il nostro organismo. In qualche maniera il tumore, il cancro, le cellule tumorali sono estranee, hanno caratteristiche che in genere possono essere riconosciute, che permettono alle stesse cellule tumorali di essere riconosciute dal sistema immunitario. A volte questo meccanismo di controllo non funziona e quindi dobbiamo semplicemente convincere il sistema immunitario a tenere sotto controllo il tumore. E ci stiamo riuscendo, direi, sempre meglio. Ma come reagisce, dottor Maio, il nostro organismo? Quanto ci mette il sistema immunitario a imparare a prendere la mira? Cosa succede? Come riuscite soprattutto a valutare gli effetti della cura? Ascoltatori mi scrivono e mi chiedono i confronti dei risultati, ad esempio le percentuali di guarigione dell'immunoterapia rispetto alle terapie tradizionali. Ma dottor Maio, andiamo per ordine. Il nostro sistema immunitario è estremamente pronto in genere a tenere sotto controllo ciò che di estraneo viene in contatto con noi. Nel caso dell'immunoterapia direi che la velocità con la quale riesce a tenere sotto controllo la malattia dipende dal tipo di farmaco e quindi dal tipo di stimolo, dal tipo di attivazione che noi riusciamo a dare al nostro sistema immunitario. Faccio un esempio per cercare di chiarire meglio questo punto. Noi abbiamo utilizzato e si continuano a utilizzare moltissimo i cosiddetti vaccini terapeutici, quindi farmaci che attivano il sistema immunitario in presenza del tumore. Questi sono sempre stati e sono uno stimolo sostanzialmente debole per il nostro sistema immunitario e quindi esso stesso può richiedere più tempo per tenere sotto controllo la malattia. Abbiamo però a disposizione oggi nuovi farmaci e nuove combinazioni di farmaci immunoterapici che invece sono un po' delle piccole bombe, direi, le vorrei chiamare, anche se non vogliamo usare delle metafore belliche. La metafora bellica, perché sono degli attivatori molto forti del nostro sistema immunitario e quindi in questo caso esso stesso richiede meno tempo, può richiedere meno tempo per tenere sotto controllo la malattia. Quindi dipende molto dal livello di stimolo che noi riusciamo a dare al sistema immunitario stesso. A proposito di sistema immunitario, proprio qualche giorno fa, dottor Maio, abbiamo parlato di microbioma, microflora intestinale, che dir si voglia, insomma, quel vivaio, come mi piace definirlo, composto da batteri, virus, funghi, che in questi ultimi anni ha attirato l'interesse dei ricercatori, tanto di diventare quasi una star. Ebbene, la ricerca ci dice che è intimamente connesso con l'immunoterapia. Il nostro sistema immunitario dipende proprio dall'intestino. Ci aiuta a capire perché e che ricadute può avere questa relazione così stretta e se abbiamo magari margini d'azione nel favorirla. Ci provo nei limiti di quelle che sono le conoscenze in questo momento, che da circa 2 anni ormai comincia a venire, sono venuti fuori dei lavori scientifici molto belli, nei quali si è iniziato a comprendere come la microflora dell'intestino, che è molto articolata e per certi aspetti molto diversa da soggetto a soggetto, è in grado di regolare la funzione e la funzionalità del sistema immunitario. Quindi in qualche maniera sembra che la presenza in particolare di alcuni ceppi batterici sia in grado di regolare la capacità del nostro sistema immunitario di funzionare. Quindi si sta cominciando a capire che in qualche maniera la microflora intestinale può essere in grado di contribuire alla efficacia anche dei trattamenti immunoterapici. È certamente una nuova frontiera che ci permetterà nei prossimi anni di comprendere come far leva proprio sulla microflora intestinale per cercare di ottenere la migliore efficacia di azione da parte del sistema immunitario anche nei confronti dei tumori. Adesso noi ci fermiamo, è tempo di sentire mercati. Che cosa sta succedendo sui mercati. Subito dopo le notizie sui mercati, telefoni aperti per le vostre domande al dottor Maio, 800 24 00 24, tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Il miglior modo per vincere la guerra contro il cancro, forse, è quello di ridefinire l'idea stessa di vittoria. Siddhartha Makruji, l'imperatore del male. E con questa citazione che Michele Maio riporta nel suo libro Il corpo anticancro, riprendiamo a parlare di immunoterapia, di questo approccio terapeutico che l'ASCO, che è l'Associazione Scientifica di Oncologi del Mondo, è anche quella che gode di maggior prestigio e riconoscimento da parte della comunità scientifica, ha messo in cima all'elenco delle novità più importanti del 2015. Dottor Maio, tanti ascoltatori vogliono parlare con lei, chiederle informazioni, notizie. Io credo che sia importante dare voce ai nostri ascoltatori, perché dalle loro storie, dottor Maio, dalle loro richieste, sono certa che lei riuscirà a fornire delle informazioni utili per completare tutto quello che il quadro di questa terapia così interessante, e che è la terapia probabilmente del futuro, che è già presente. Abbiamo Franca che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Franca. Sì, buongiorno, chiamo da Milano, vi ascolto tutti i giorni. Volevo chiedere al dottor Di Maio, io ho mio figlio di 45 anni che 5 anni fa, il settembre 2012, ha tolto un neo ed era un melanoma lì all'Istituto dei Tumori. Lui ha i controlli prima ogni 6 mesi, adesso ogni anno. Ma non gli hanno fatto fare nessun esame del sangue, niente. Non riesco a capire come mai, per controllare meglio se c'è ancora qualcosa in giro o basta solo la visita. Tra l'altro l'immunoterapia oncologica è stata proprio, dottor Maio, applicata per prima al melanoma. Assolutamente sì. Allora, nel caso particolare bisognerebbe avere ulteriori elementi, ma i colleghi dell'Istituto Tumori di Milano sanno bene cosa fanno, quindi verosimilmente se non ci sono se la lesione, se il tumore iniziale che è stato rimosso aveva delle caratteristiche particolari, non era necessario fare alcun tipo. Ma io non ho più la cartella adesso, il foglio che gli hanno rilasciato. Sì. Però sembra che fosse che era solo circoscritto. Quindi i colleghi del dottor Maio dell'Istituto dei Tumori non hanno ritenuto utile procedere ad ulteriori accertamenti. Franca, se vuole, ci scrive, ma il messaggio di Franca mi suggerisce una domanda. Dottor Maio, voi avete l'immunoterapia, è stata proprio applicata per prima al melanoma, al tumore della pelle. Come mai? Ha delle caratteristiche particolari questo tipo di tumore? E i risultati che avete ottenuto con questa forma tumorale, quali altre strade hanno aperto, quali strade state percorrendo? Ma è assolutamente vero, nel senso che l'immunoterapia è stata applicata negli anni, negli ultimi decenni direi, per in prima battuta nel melanoma cutaneo, che è un tumore della pelle, per varie ragioni. La prima è perché fino a pochissimi anni fa, nella malattia avanzata, quindi nel melanoma metastatico, noi non avevamo praticamente a disposizione nulla che potesse impattare o migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Quindi era una patologia, come purtroppo ve ne sono tante altre, nelle quali i trattamenti convenzionali, standard, chemioterapici avevano pochissimo spazio. La seconda ragione è perché contestualmente a livello internazionale la ricerca di laboratorio, la ricerca nei modelli animali, la ricerca in vitro, ci ha permesso di comprendere molto bene le caratteristiche immunologiche delle cellule di melanoma, quindi le caratteristiche, la biologia della malattia e come le cellule tumorali, nel caso del melanoma, interagiscono con il sistema immunitario del paziente. Quindi mettendo insieme questi due aspetti, viene fuori la ragione per cui il melanoma è stato sempre considerato il modello di sperimentazione clinica dell'immunoterapia. Tant'è vero che proprio nel melanoma cutaneo abbiamo ottenuto finora i migliori risultati, ma semplicemente perché abbiamo iniziato prima. Quindi noi adesso sappiamo che nella malattia avanzata, quindi non come nel caso del paziente di cui discutevamo prima, quindi nella malattia metastatica, noi abbiamo triplicato la sopravvivenza dei pazienti a un anno, abbiamo di più che triplicato la sopravvivenza dei pazienti a 5 anni e a 10 anni. Quindi questa in qualche maniera, non siamo soddisfatti ovviamente di ciò che abbiamo importanti, degli importanti risultati che abbiamo ottenuto sinora, la ricerca va avanti, ma abbiamo dato un impatto enorme alla sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma, tant'è vero che ormai la chemioterapia nel caso particolare del melanoma non si utilizza più, se non quando c'è stato un fallimento anche dei migliori trattamenti immunoterapici che, diciamolo, sono ormai disponibili anche nell'ambito del sistema sanitario nazionale in Italia e che quindi possono essere applicati in praticamente tutte le oncologie italiane. Dottor Maio, mi scusi, ma c'è una selezione del paziente? Mi aiuti lei a raccontare bene questo concetto? Abbiamo visto che ci sono tanti tipi di tumore. Lo stesso tumore al seno non è uno, ma ce ne sono tanti. Sì. Ci sono tante storie di malattia. Il cancro è, mi perdoni, però un nemico molto difficile da combattere, perché è infingardo, astuto. Ecco, allora la domanda è, ma qual è il profilo del paziente? Qual è la situazione che fa propendere l'equipe di clinici, di oncologi a seguire la strada dell'immunoterapia al posto di quella tradizionale, quindi con la chemio, la radioterapia? È una domanda difficile, nel senso è una domanda sulla quale si sta orientando moltissimo ancora una volta la ricerca internazionale. Noi sappiamo che alcune caratteristiche molecolari delle cellule tumorali rendono il tumore stesso più suscettibile al trattamento con i nuovi farmaci immunoterapici. Quindi in questo momento vi sono sperimentazioni cliniche che sono mirate non tanto al tipo di tumore, quanto più che altro a caratteristiche molecolari che possono essere condivise da tumori di tipo diverso, dal tumore del colon, al tumore del polmone, al tumore delle vie biliari, e quindi il bersaglio, l'obiettivo di questo tipo di sperimentazioni non è tanto il tipo di tumore, quanto più che altro la caratteristica molecolare di quel tumore che noi sappiamo lo rende maggiormente suscettibile all'immunoterapia. Ma questo è certamente la nuova sfida che noi abbiamo davanti, perché dobbiamo selezionare sempre di più e sempre meglio i pazienti che potranno rispondere a un determinato tipo di immunoterapia piuttosto che a un altro tipo di immunoterapia. Adesso è quasi tempo di dare la linea alle informazioni sul traffico. Nel libro parlate, dottor Maio, anche della tempesta citochinica, che è la reazione scatenata dalla immunoterapia. Ne parleremo perché alcuni ascoltatori mi stanno chiedendo: ma non ha effetti collaterali? È possibile? Naturalmente ci arriviamo naturalmente con l'aiuto del dottor Maio, subito dopo le informazioni sul traffico, anche con le vostre domande. A tra poco. Cuore e denari. Ultimi minuti di trasmissione, abbiamo il piacere di avere in linea con noi e l'onore, direi, Michele Maio, che è direttore dell'ospedale del Dipartimento Oncologico all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, pioniere capofila dell'immunoterapia applicata nel campo dei tumori, autore insieme ad Agnese Codignola del Il Corpo Anticancro, così ripeto il titolo che mi è stato più volte richiesto dai nostri ascoltatori. Dottor Maio, parlate anche della tempesta citochinica, che è la reazione scatenata dall'immunoterapia, è corretto? Certo, come diceva lei, anche l'immunoterapia ha degli effetti collaterali. Questi effetti collaterali sono completamente diversi dagli effetti collaterali a cui che tutti quanti noi conosciamo, pur magari non avendola sperimentata, la caduta dei capelli, l'abbassamento dei globuli bianchi, delle alterazioni che diciamo alterazioni di tipo diverse. Questi non sono caratteristici effetti collaterali dell'immunoterapia. L'immunoterapia ha dei suoi effetti collaterali molto precisi che abbiamo imparato a conoscere e soprattutto che abbiamo imparato a tenere sotto controllo, e sono direttamente legati al meccanismo d'azione dei farmaci immunoterapici. Noi attiviamo il sistema immunitario e questa attivazione del sistema immunitario si dirige certamente contro le cellule tumorali, eliminandole o, come dicevamo, tenendole sotto controllo per un periodo di tempo molto lungo, ma può in alcuni casi, in alcuni casi particolari, dare anche dei fenomeni cosiddetti autoreattivi, quindi avere un eccesso di reazione, un po' come succede con le malattie autoimmuni, verso alcuni organi, ad esempio il fegato, il colon, la cute, e quindi abbiamo i cosiddetti effetti collaterali dell'immunoterapia, che possono essere la colite, possono essere eruzioni cutanee, alterazioni della funzionalità epatica. Ma quello che è importante è conoscerli, educare i pazienti a questi effetti collaterali diversi, a comunicarceli e a comunicarli all'oncologo quanto prima, perché sappiamo, come dicevo, tenerli sotto controllo, e sappiamo che tenendoli sotto controllo nelle loro fasi iniziali noi riusciamo quindi a ridurne l'intensità, ridurne la durata e quindi a continuare il trattamento che può essere di vantaggio per il paziente. Abbiamo Giorgio che ci chiama da Firenze. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, però sono stato anticipato nel senso che volevo fare proprio la domanda di quanto è elevato il rischio di malattie autoimmuni con questa terapia. Il dottor Maio le ha già risposto. Di quale gravità può essere eventualmente la malattia che insorge dal punto di vista dell'autoimmunità? Solo per correggere un pochino il tiro, io non parlerei di malattie autoimmuni, bensì di autoreattività. Le malattie autoimmuni sono un capitolo diverso nell'ambito delle patologie con le quali dobbiamo poterci confrontare, ma le patologie autoimmuni tendono a persistere per tutta la vita, mentre invece in questi casi sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dei fenomeni di tipo che io preferisco chiamare autoreattivi, quindi diretti contro organi normali che non hanno il cancro del nostro organismo, ma ancora una volta che riusciamo a tenere molto bene sotto controllo e che possono diventare assolutamente passeggeri. Le leggo un sms, un messaggio di Fernanda. Come facciamo ad accedere all'immunoterapia? Ci chiede. Tutti gli ospedali possono attuarla e basta la richiesta dell'oncologo. Dottor Maio, questa domanda di Fernanda riassume un po' tutte le richieste dei nostri ascoltatori. Io vorrei che, insomma, lei dirige un centro all'avanguardia a cui giungono pazienti dall'Italia e dall'estero. Vorrei che proprio lei desse un consiglio a chi ha ricevuto una diagnosi di tumore, cerca per sé, per il familiare, naturalmente l'eccellenza. Spesso si è confusi, spaesati, si sentono di altre terapie, si sente parlare di altri centri, di altri professionisti e cresce magari il dubbio di non essere curati nel modo migliore. Nello stesso tempo ci sono anche altri ascoltatori che mi chiedono: ma l'immunoterapia viene utilizzata anche in presenza di metastasi? Io le ho riassunto queste due richieste in chiusura per dare proprio anche delle indicazioni trasparenti e chiare ai nostri ascoltatori concrete. Ma allora, in prima battuta, credo che il rapporto del paziente con l'oncologo, con l'oncologo curante, con l'oncologo che lo ha in carico, sia il punto chiave della relazione che bisogna stabilire. Nell'ambito di questa relazione anche discutere delle diverse possibilità terapeutiche, incluse quelle dell'immunoterapia, è qualcosa che tutti i pazienti devono fare. L'immunoterapia in questo momento in Italia, anche grazie all'enorme lavoro del Ministro della Sanità, dell'AIFA, è disponibile per il melanoma cutaneo, per il cancro del polmone in praticamente tutte le oncologie d'Italia. C'è però da dire che quindi non c'è bisogno di spostarsi. Per il melanoma e per il tumore del polmone già presente. I farmaci sono disponibili nell'ambito del sistema sanitario nazionale. Per altri tipi di tumore, purtroppo direi al momento, forse purtroppo non è il termine esatto, ci sono sperimentazioni attive in diversi centri in Italia. In questo caso, quindi anche in questo caso, è preferibile discutere col proprio oncologo di riferimento per sapere se magari in qualche centro in Italia può esserci attiva una sperimentazione che, nella quale il paziente può essere valutato. Questo è quello che succede a noi quotidianamente. Noi quotidianamente riceviamo messaggi, telefonate, sms, whatsapp, siamo un po', fra virgolette, sommersi, ma lo dico in senso positivo, anche da richieste di oncologi italiani che vogliono riferirci di loro pazienti, perché sanno che abbiamo magari sperimentazioni attive nelle quali il paziente potrebbe avere accesso all'immunoterapia. Certo. Esatto. E relativamente alla seconda domanda, quindi se l'immunoterapia può essere applicata anche nel caso in presenza di metastasi, la risposta è assolutamente sì. In genere, e questo ormai negli anni passati, l'immunoterapia, come qualunque nuova sperimentazione, nuova terapia, viene utilizzata e viene sperimentata in prima battuta in pazienti che hanno una malattia avanzata, una malattia metastatica. Una volta ottenuti i risultati nella malattia metastatica, così come stiamo facendo ad esempio e come discutevamo prima nel melanoma, nel cancro del polmone, si sta spostando l'attività e quindi la sperimentazione nelle fasi più iniziali della malattia, quando magari la malattia non ha dato ancora metastasi, proprio per cercare di prevenire la possibilità o ridurre il rischio che la malattia si possa diffondere ad altri organi nell'organismo. Dottor Ramaio, nel centro che lei dirige sono in corso tantissime sperimentazioni. Chiudiamo con una domanda: che cosa si aspetta, dottor Ramaio, per il futuro? Mi aspetto che l'immunoterapia possa rappresentare il quarto punto di svolta che noi abbiamo avuto nel trattamento del cancro. Negli ultimi cent'anni fa che c'era solo la chirurgia, poi dopo agli inizi degli anni 90 che abbiamo cominciato ad avere la radioterapia, all'inizio, a metà dello scorso secolo, abbiamo avuto la chemioterapia, alla fine dello scorso secolo, inizio di questo nuovo, abbiamo adesso l'immunoterapia. Credo senza ombra di dubbio che siamo al quarto punto di svolta e quindi che avremo non sostituito la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia, che mantengono la loro validità in alcune situazioni, ma abbiamo a disposizione una nuova strategia sulla quale stiamo sperimentando e bisognerà che si lavori ancora molto a livello internazionale, ma che ci ha già dato dei risultati assolutamente stupefacenti. Grazie dottor Ramaio per la sua chiarezza, per il suo impegno, per il suo rigore. Ricordo il titolo del libro, Il corpo anticancro. Dottor Ramaio, a presto, grazie, buon lavoro. A presto, grazie mille, buona giornata. Noi abbiamo terminato questa gran bella puntata di Cuore e Denari, ma naturalmente ritorniamo insieme a voi domani a partire come sempre dalle 10:30. Buona giornata, buon pomeriggio. Buona giornata, a presto.